Marino, ci sei? CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Amico lo stesso, lo fa in continente, però retribuito bene, perché loro hanno un contratto nazionale, capito? Non quello regionale. Sì, già lo so, come lo io. Su, l'ho pagato bene, sì. L'ho pagato bene, sì, prendevo 1.800 euro al mese, prendevo. Edo ne prende 2.000, mi pare. Però lui è... come si chiama, guida i mezzi blindati, dai, quelli che portano i valori. Ho capito. Diciamo che lui alle 2 ha finito, capito? Fa solo la mattina e fino alle 2 e poi ha finito, la sera ce l'ha libera, la notte ce l'ha libera. Beato lui, io certo smontavo, facevo anche io, blindato li facevo. Come smontavo da lì, facevo anche la notte. Certo, anche da lì me ne sono andato, mi sono rotto i coglioni e ho detto che ho fatto la cosa. Andate a far culo tutti quanti, perché se non si può fare giorno e notte, assolutamente. Ho resistito un po', poi me ne sono andato. Ma lui ne ha cambiato due o tre, perché all'inizio metteva i bigliettini nelle serate, faceva 300 km ogni notte. Faceva Oderzo e Treviso, si faceva sia Oderzo che Treviso. Due, infatti lui c'aveva il porto d'armi, l'aveva preso in due prefetture, l'aveva fatta la domanda per il porto d'armi, perché faceva due città, capito? Sì, perché tu nella città non puoi sconfinare, devi stare nel tuo coso di nucleo di cittadinanza, si può dire, del comune. Se devi andare fuori non puoi uscirci con la pistola, assolutamente, per quello che ha fatto tre cose di cittadinanza di comuni. Sì, sì. E prima faceva un bel chilometri, poi è stato nelle fabbriche, faceva la guardia nelle fabbriche, c'è un freddo quando nevicava, per carità. Adesso sta bene, adesso non si può lamentare, dice sì, è rischioso, però almeno, cioè già, tutto non si può avere, ma è un rischio, però guadagno bene e in più c'ho la sera libera. Lo so che è rischioso, non sa devi fare. Lavoro, quello che si sa che lavoro è rischioso sul lavoro. Come arrivi, chi passa, devi sapere, lui che anche dietro le spalle, poi che si sa, anzi, delinquenza, quindi di più, va, quindi, ancora bicio, degli anni precedenti. E un suo collega l'hanno messo in questa fabbrica dove facevano bracciali d'oro, tutta questa roba qua in oro. Ed era da solo in questa fabbrica, cioè aveva la casa lì e faceva il guardiano, no? E praticamente una notte c'era la villa principale, era dentro, proprio dentro il cortile dove c'era anche la fabbrica. Una notte era sotto la casa, stava facendo il giro, gli sono saltati dal tetto. L'hanno picchiato disarmato, l'hanno trovato in terra tutti i sanguinosi, l'hanno picchiato in tre. Vai giù, vedi, lavori sono così, lì si sia ragione un po' un cazzo, a parte che non puoi neanche sparare, e poi dopo un cazzo che basta, dalla ragione basta lo giusto. Ma anche la polizia adesso non può più fare nulla, e prima io volevo che i poliziotti usavano manganelli, cosa, ma non possono fare più nulla, non possono, cioè devono aspettare che gli sparino, cioè, ma dimmi tu, c'è una cosa giusta, purtroppo è così. Ma lui adesso non si lamenta più, si è sposato lì in continente, lui è del Latte Dolce, che abitava in via Verazzano lì. Magari lo conosco pure, a questo, quanti anni c'ha? Edoardo ne avrà, penso che abbia una cinquantina, 45-50 anni, dai. Allora sicuramente lo conoscerò, adesso non ce l'ho presente, ma se lo vedo sicuro lo conosco. Mica era grosso, era un bel grosso prima, adesso si è preso il diabete e ha dimagrito un bel, però prima era grosso. Edoardo si chiama, non lo conosci? so che era al Cisium prima anche. Ma sicuramente sì, adesso per il momento non ce l'ho presente, però sicuramente il nome sì, non mi è, familiare, però sicuramente lo conoscerò. Qua che il fratello suona musica sassarese, sicuramente li conosci, dai. Che chiamano Dodo Rodò di soprano. Dodo. Dodo Rodò. E io Dodo lo chiamo. Lo conosco il fratello di Dodo. Sì, sì, è il fratello. E lui adesso è in continente. Quando è partito così per sfizio così. E le hanno detto che misura c'era di divisa, così le ha preparato, e lui ha detto la misura, cioè non ne abbiamo di quella misura, bisogna che la ordiniamo. Non avevo divise per lui. Grazie, grazie a tu, grazie per la salaccia. Ma poi già si è fatto strada, dai, piano piano, tutti hanno scommesso, oh, vedrai, massimo un mese torna in occhi. Non è vero invece, non è tornato. Si è fatto la donna, tutto quanto, si è sposato, e adesso vive lì. Se stai bene, io, anche io, se torno ad andare dove ero prima, il lavoro lo trovo subito, perché lo trovo subito. Ma sicuramente non ho passato abbastanza in quei posti lì per fare la fame, a parte lì ci vogliono due persone che lavori per pagarti l'affitto e tutto quanto. Un conto se c'è la casa tua, vabbè, riesci a viverci, ma se devi pagare l'affitto è meglio che me la faccio qua la fame. E a me non c'è casa tua qua. Là chi c'è? Non c'è nessuno. E nel caso va, c'è amici, va, c'ho con amici, e ma gli amici non si mantengono, no. Io mi sono sceso qua che il lavoro era scadente, quindi non ce la facevo. Ma sono sceso qua. Se no, se avevo avuto il lavoro come dico io, di certo non me ne ero sceso qua. Ah beh, certo. Se non va bene il lavoro è così. Ma magari, ma qua questo contratto nazionale dovevano farlo, poi non l'hanno mai fatto, così è. Questo contratto dicono ancora così, e prendiamo una miseria. Una miseria, perché non si può lavorare tanto per mille euro al mese, aiuto. No, assolutamente no. E dicevano che dovevano aumentarlo, ma la tombaglia è sempre così. Oh, yeah. Beh, c'hanno ragione quelli che dicono per andare per 1000 euro e farmi la notte e tutto quanto mi prendo il reddito di cittadinanza per essere a casa. Tante volte non ragionano male, cioè sono dei disapprofitti, quello sì, però per 1000 euro, cavolo, fate troppe ore, cazzo, troppe ore. No, adesso stiamo facendo 8 ore, adesso 8 ore, ma 1000 euro, fai 8 ore 1000 euro. Io quando facevo 15 ore, 15-16 ore al giorno, quando ero lì nei cantini, alla Roda, lì dalla parte di Fiume Santo, facevamo otto torres, prendevo quei 1003, però mi facevo 15 euro però, a Ucciassoli, dalle 5 di sera fino alle 8 del mattino. Mamma mia, e poi ti sballa tutta la giornata, quando fai tutte quelle ore sei stanco, non recuperi mai, non riesci mai a recuperare, perché io di notturne, sai quanti ne ho fatto facendo servizio ambulanza, però poi non riuscivi a recuperarle, anche se dormivi ti lasciava quel vuoto, boh, ti sentivi strano. E lui che non riesci a dormire come la notte, io arrivavo a casa e cazzo ero stanco morto, ma stanco, arrivavo a casa con caldo che c'era, non riuscivo neanche a dormire. Era alle 5 dopo dovevo riprendere il servizio, fino alle 8 di mattina, pensa tu. È stressante, vabbè. stringi i denti, ce l'ha quando non è proprio uno migliore, anche se non è quel tipo di lavoro, anche se è un altro tipo di lavoro, se è migliore che ti pagano di più, dimenticati questo e te ne sarebbe di un altro. Ma è quel lavoro, già io lavori pesanti non ne posso più fare, lavori di edilizia non ne posso più fare, io ho porterato, ho questo tipo di lavoro qua, non ne posso fare altri lavori. Ciao Antonio, avanti, buonasera. Buonasera già, buonasera anche a te. Ciccio, ah. E beh, Bubi. Beh, ciao, dai. Mi sono entrato un attimino, sto cucinando, sto per salutare, vi ho sentito. Noi ci siamo già un po'. Perché non siete entrati voi, tu fate liscio. Proprio stavo cucinando già, ero impegnato, stavo facendo le cose. Se no già lo sai che sarei entrato per volentieri. Vabbè, non c'è problema, non c'è problema. Gaffa, gaffa. Dipende, Emanuele. Vabbè, è così, capito già, è così. Lavori pesanti, io nascondo, io faccio un lavoro in edilizia, ero iscritto alla Camera di Commercio, lavoro a conto mio con mio cognato, facevamo un po' di delle scale, facevamo le cappelle dei cimiteri, lavoro c'era. Poi alla fine ho avuto questo problema qua, al lavoro non potevo più farlo. Se c'è l'estazione di alto, aspetta un secondo, scusami. La frusta, quale frusta che usavamo per la macchina? Questa era quella quando vanno a caricare. Sì, esatto. Sai quanto hanno cercato a monte la bugia? Era lì, e c'era sul balcone. L'avevo cercata da tanto tempo, manca la bugia, però l'ho mai trovata. Ah, già va bene. Se mi ascolti, cazzo, mi sento anche ottava. No, sono buona quelle antenne. Io mi ricordo che c'era Claudio che andava fuori e lo sentivamo bene, vabbè che usava i neroni, però lo sentivamo bene, non usciva manco distorto, niente. Ah, no, già va bene. Sì, queste sono antenne già caricate. Sì, sì, sono caricate, solo che hanno una frequenza limitata, capito? Anche volendo la posso mettere anche sulla terra, ma mi vuole 44 metri di cavo, non so pochi. Ci ha pagato 44. Il palazzo è alto, il palazzo è grande. E non è il terrazzo a mettere il terrazzo? Il terrazzo è solo che non ci sono i magazzini che ci andiamo a riuscire fuori da noi. Quindi l'unica è metterla sul tetto, dici? Sì, l'unica è mettere sopra, ma sopra no, è assurda metterla su perché sono quei tetti la mela, insomma. E se fai l'arma c'è cazzo amare. E poi quello gaggicchi. Appunto, non c'è neanche il parapetto. Che fa la scivolo ti fa? Se non faccio a casa, non vado qui, ma allora sì. No, cattoso, ho detto... faccio quello che vuoi. Ma no, che non ho detto, no, ma non faccio la... A parte che non ne vale più la pena, se devi uscire di te, non c'è più nessuno. Ehi, vabbè. Se tu diciamo così non entra più nessuno davvero. Ma qualcuno già c'è, se stiamo parlando ci siamo. C'era Antonio, ieri è entrato anche Carlo, c'era Alessio, ce n'è di gente, c'era Marco Condo, solo che entrano ogni tanto, capito? E io so, ma non è più come prima, che ti piaceva di più, ma non... Vabbè, io canto anche, non è che mi interessi, se c'è gente va bene, se no pazienza, io prendo e mi metto a cantare, capito? Tu ormai sei passato come Pavarotti. Vabbè, c'è una passione per me. Vabbè, sì. No. E Antonio ancora nei fornelli, mi raccomando, mi non brucia nulla. E sabatonotte veniamo da cantare al karaoke pure. Ah? E sabatonotte vado pure a cantare al karaoke, perché non mi basta, sta una settimana me ne vado a cantare al karaoke. E dove vai? A Blackstore, solitamente. Ah, dipende, però cambio anche. Solitamente a Blackstore. Mangiamo lì e poi cantiamo. Ok, ci ho mangiato due volte lì a Blackstone, già si mangia bene. E per piatti composti io prendo calamari, patatine, questa roba qua. Ah no, già si mangia bene, ci ho mangiato due volte, a voglia si mangia bene. Perché c'è un bel ambiente anche. Sì, sì, tranquillo. Infatti, fa la canzone che ti devi fare, mangi tranquillo. Ti metti a cantare, non ti manda via nessuno, anche se hai finito di mangiare ti lasciano, non ti mandano via. E qualche volta anche a Porto Torres scendo, giro un po' là, ma solitamente più spesso vado al Blackstone. Già sta bene, dai, già non posso far qui. Tanta gente ci va, adesso mi questa estate inizia. Sì, è sempre pieno anche d'inverno, sempre pieno, zeppo. Devi telefonare per prenotare, se no casino. Già lo so, già lo so. Anzi, era allargato, prima era solo con la saletta dentro, adesso c'è anche fuori che l'hanno chiusa. Sì, ma io vado dentro perché devo cantare, se no mi sembra di essere la cuccia. Sì, se trovo il cartellino lì non posso cantare, no? E intanto mi faccio due o tre canzoni, non di più, tanto per tanto per cantare, per far qualcosa. Va bene, va bene. Mamma mia. Sì, va bene, portate che ti diverti. Tanto che arriva. Almeno ci passano un paio d'ore. E poi vado con amici, capito? Non è che vado solo. Vado con amici, con amiche. Andiamo tutti insieme. Cantano anche loro. Meglio così, alla sua, certo, se vai vai in compagnia e passiamo una serata come si deve. E io c'è uno che va sempre da solo, proprio, mi fa anche pena così. Sempre solo, si mangia la pizza e se ne va. Ehi, devo dire che sta meglio solo. Meglio solo, io già mal accompagnati. Quello è vero, quello è poco ma sicuro. Cazzo, già c'ha biglietti, per carità, è meglio che mi fa da giura. Giusto, giusto. vabbè. E nei locali non vi mandano a fare tipo, cosa ti posso dire, la Conad, come dire, non ci vai. No, perché questo ha preso solo la parte dei cantieri, capito? Questo ha preso solo la parte nei cantieri, dove fanno automoltaico, dove fanno le strade, dove ci sono le attrezzature, solo quello. Come fa roba di me, è raro, ma se c'è qualche concerto allora stiamo lì per vedere. Dove ero prima sì, facevamo i concerti, stavamo lì fino a finire i concerti davanti al parco, quando c'era Vasco Rossi, lì già era bello, certo. E almeno ti divertivi oltre che fare servizio. Stavi bene sì. E adesso vediamo, se c'è, adesso, fino a quando adesso. All'altro mese finisce il contratto, dopo lo torno a rinnovare, fino a finire i lavori che stanno facendo, dove sto facendo piantonamento. Poi si vedrà, dopo dovremo andare a fare la stagione, torna. Ho capito, ma tu sei in base agli appalti in casa, per dire per degli appalti ti dicesi anche a voi così. Ma se a tutti, tu la casa, oppure se per le altre parti ci stava a richiamare. Sì, ma non è per lui, sì. Cioè, che c'è un casino. Cioè, ma non può avere mai una cosa da vostra, quindi è sicuro. Lo so, non puoi parlare di te, non puoi fare qualche finanziamento per riapprendersi una macchina, non puoi mica nulla così. Infatti se su chi va là, dopo metà l'altro ti può mandare via perché ha perso l'appalto e si è distrato di nuovo. Appunto, ma io guarda, io mi auguro di trovare qualcosa di meglio, sempre in quel settore lì, però di meglio nella busta, anche se no non può andare avanti, dopo poco. Perché non fai domande a tutti gli istituti di vigilanza, scusa? Non c'è niente, io adesso mi devono far sapere, però non c'è nulla, ma tutte le cose hanno già mandato burri qui, se non c'hai chi calcio in culo, non entri. Bisogna conoscere le persone giuste. All'executive mi guadagnano bene, perché si dividono anche gli utili a fine anno e si guadagnano, non mi disturbo. All'executive? Sì. E va bene, insomma, c'è Santa, c'è Vigi, poi Amoria, poi Morese, adesso non te ne ho fatto, io ho fatto non esiste più. Oh, farina non c'è più, farina c'è stava due miei fratelli, la farina. Quella sì era vigilante, poi andava in buio. E lì c'era Mario Mao. Mario Mao era lì. Io già lo so, lavorava insieme a mio fratello. E con Mario, io c'avevo la greppa sotto il banco di Sardegna, solo a lui lasciava, gli altri li facevo andare via, perché c'ero io. Allora io, quando arrivavo, Mario, cosa ti posso portare da bere? E portavo il caffè corretto. Andavo, gli portavo il caffè corretto quando lo voleva lui. Ed era la Pasqua. Poi quando tu lì a Ciuppelli ci puntava il faro. E così, no, Mario Mao, lo so, anche lui lavorava lì, faceva sempre la notte. E magari è conosciuto anche a mio fratello, perché lui entrava dalle 10 fino alle 6 del mattino. Probabilmente sì, magari adesso non ricordo. E adesso fa ancora la guardia giurata, no? No, adesso è al cimitero perché è morto. L'altro sì, è in pensione, che mi ha fatto 45 anni di guardia giurata. Poi c'era Elio, bravo Charlie. E non so, c'era Coso, Federico, viveva lì. Massimo. Io lo facevo fare la villa di Salis, me lo ricordo, io andavo la notte a fargli compagnia. Andavo il sabato che non lavoravo e facevo compagnia la notte, ci andavo. Andavano col motorino, questa la col ciao, andavano a fare o col sì, a fare il volantinaggio. Sì, già me lo ricordo. C'era anche, ma come si chiama? Diceva devo fare i cubi per il mensile, ci faceva, scriveva, non so che doveva fare, e poi se ne andava con il motorino. I cubi ti diceva che doveva fare. Certo, quelle sì, erano vigilanza, la vaga è tutto un casino. Agavo magari più, eh. Cioè, ce ne sono troppi, capito? Come tutte le cose, quando ce ne sono troppe poi si prende poco, è normale. È così. Infatti è così, è uno schifo adesso. È uno schifo, non si compare più nulla. Ma oh, iaia. Il casino, eh. Prima sì, va bene, è riparato bene, adesso il gatto deve lavorare, ormai il gatto lavora gratis. Io le prime guardie giurate le ho conosciute in bicicletta addirittura, con la mantella come d'oro. Sì, anche io le ho conosciute così, ero piccolino, c'era una mantella nera. Sì, ma perché il cappello cazzo, ma non mette il cazzo, ma è una malacqua sul cappello. E io me lo ricordo, passava la Sacro Cuore, passava. Sì, già me lo ricordo anche io, ero piccolino, però già me lo ricordo. Cazzo, quelli sì, erano i tempi di guardia giurata, ma non avevano il schifo, cazzo, erano schifo adesso. Adesso guadagna solo il padrone, lui. Ah va cazzo, tu stavali, guadagna un madone, tu ti fai lo culo e guadagna tu. Eccoci, purtroppo è sbagliato, ma è così. Sì, ma vedrai che cambieranno, perché se la gente poi non ci va più, voglio vedere i servizi come se li fanno. Ma non sai che c'è fame e ne approfittano per quello, capito? Non so, è per quello che ne approfitta, perché il cazzo ci vanno lo stesso. Purtroppo è così. Ci vanno perché hanno bisogno di mangiare e preferiscono prendere 1.000 euro piuttosto che non avere nulla. Ho già. Ho detto, molta gente preferisce prendere 1.000 euro che non avere nulla. Anche io sono così. Io non posso stare a casa, anche faccio la pagare le dosi di gas, luce, male varie, non posso stare a casa. Vabbè, certo che sì, almeno che ti diano una pensione, allora te ne freghi. Sì, la pensione già ho fatto la richiesta. L'ho fatta la richiesta a torre. Domande fatte, ma se non resti adesso, ma la sorte andare in pensione, lui. Sì, lo so perché ci sono troppe fatture, cazzo che dura la auto, che la gira, cazzo me la rivesco a guidare la macchina. E per colpa di questi ci piamo tutti, capito? Punto, no? Per colpa di questi coglioni, per chi la devono dare, cazzo non la dare, a chi cazzo la guida la se le cazzo non vale nulla. Ma vedi che la legge è fina, prima o poi li scopre. Beh, la legge è normale che prima o poi ti scopri sì. Pensavo di essere furbi, ma non sono furbi come me. Poi basta che qualcuno faccia la spia che abita vicino, che non dicono che non è vero, che c'è in macchina, lo controlla e si è fottito. Non è così, no. Secondo corso ma mi danno 40% e ragazzi per muro lo guro con 40% per i problemi che ho io. E tu non dici che non puoi più lavorare, che stai male, che sei stato operato, ne hai fogli di ricovero? Ehi, cazzo, faccio un fascicolo, cazzo, di carta dell'ospedale, anche il dischetto, cioè. Tu presentami tutte le fotocopie, mi fai la fotocopia perché l'originale non lo voglio, non voglio la fotocopia. Sì, le ho fatte tutte le fotocopie, le ho fatte tutte quelle. Mamma, lo sai cosa mi hanno fatto quando sono andato a fare il ricorso? Che ho detto che ero operato. Per la dottoressa mi ha detto si abbassi i pantaloni, volevo vedere le cicatrici, non ci credeva. La dottoressa mia lo sa che ho fatto l'operazione, perché la medicazione me la faceva lì. Ma anche mio dottore qua mi spacco, lo smetta. Non lo so, né il tuo dottore né il mio, sono uno staff di dottori che controllavano tutto. A me me ne è capitata una sola di dottoressa, ma era un po'. Mi ha detto prova a inchinarsi, io ho detto troppi di così non ce la faccio. Che bella. Perché se no mi fa male. Provi, no, mi fa male, l'ho detto, cosa provo? Mi fa male. Niente, non ce la facevo, cazzo che devo fare. Però no, a me già me l'hanno data, l'ho visto tutta la documentazione, tutto qua. Sì, ma bisogna avere una con le palle, questa che mi ha fatto la cosa non vale un cazzo. Poi un amico mio è andato a fare la mia spacca, lo smetto, non mi fate entrare. Deva troppo. Cazzo, due volte le palline, lo so che lo schiacci, cazzo. Mi spacco, lo smetto, se non mi fate entrare. Entra. Sto scherzando. Se ti fai giammo me. Oh, ciao amore. Se ti fai giammo. Riprendi già che stavo scherzando. E io riprendo e chiudo perché devo portare giù il cane. Adesso me ne vado, vi saluto tutti, ciao Tore, ciao anche a te Emanuele e anche a Antonio, dai, tutti i nostri ascoltatori. Guardati per me, dai, che devo portare giù il cane, è venuto a trovarlo, quando viene vuol dire vuole scendere. Ok, già, c'è problema. Ciao già, ci sentiamo, dai, che vieni. Cantore, secondo, vai a tu. Ehi, cappa, ciao già. Ehi, ciao re, buonasera. Ma Tore è andato al canale. No, riprendete che sto aggiustando una cosa qua e non mi funziona bene il microfono. Riprendete pure. Buonasera comunque a tutti. Buonasera.